specie si emancipa dai limiti della forza umana. Macchina motrice si emancipa dai limiti della forza umana. Produce macchine mediante macchine, produce macchine mediante macchine. Produzione macchina costa meno. Protezione.